Amico Mario. Adesso Claudio, mi copi? Sì, grazie che ti copio, amato. E come pulita questa la radio? Sì, è pulita, lavata con parlana. Kappa, eia, questa me l'hanno messa a posto oggi, il presidente della montagna. Giomari, chi tu che noi sia, Emmi? Visto, te l'ha messa a posto, meglio così, come lo senti Massimiliano? Me lo sento bene, me lo sento bene. C'è un bel bip di che tu... Capa, ricambiati i saluti. L'F16, Lala, ce l'ha nel microfono il bippi. E anche io ce l'ho, io però c'ho il 22, hai capito? C'ha anche quello slider dove c'è l'eco, giusto? Eia, c'è la levetta, un tasso al fianco. Ce l'avevo sempre conservato e me l'ho fatta abbinare a questo e già andava così un tratto. Andava, chi è che vuole entrare avanti? No, io ero, ma sto uscendo, vede un po' Massimiliano. Sì, sta andando, vai di nuovo. È positivo, dai, io ho detto una radio che non attaccavo da un bene e l'ho attaccata adesso a vedere se funziona. Non lo so se già, Claudio mi ascolti con questa, già è quella piccolina che esce poco, però spero che mi faccia dire lo stesso, dammi conferma Claudio. 5, 9, 3, 10, radio 5, perfetto, agisci, alla grande. Allora scendi, tu Giovanni mi ascolti? 9,5 sei da me, 9,5 a radio 5. Ecco, buonasera. Kappa, registrato il brecco. Ciao Luigi, ben sentito. Kappa, abbatti il brecco. Buonasera. Da parte mia ti ascolto un po' bassino di radio. Aspetta, ma tu sei a produttore delle stazioni, sì. Tanto, o sei a giro, si pare una funzione, stava lì noi scendi. No, sono stazione fissa, QTH Porto Torres. Positivo, guarda così, più forte così, che se l'alzo appena di bicchieri. Sì, qualcosa migliorato oggi. Sì, ma io sto facendo per uscire pazzo, non per uscire hai capito? Sto facendo per andare più basso possibile. Sacco al PL. E tu pensi a tu portarsene lui? Ciao Sandro. Ciao Claudio, buonasera. Vieni, hai sentito a Claudio, portatele. Ciao Sandro, ma tenete i golonini, Santa Maria Mare Nostra, la reci mi sei facendo, 5-9 più 10, radio 5 perfetta, super bomba. Calpa, oi, come sto? Oh, ciao Massimiliano, cerca di capirmi. Guarda, ho fatto rientro, neanche mangiato, mi sono buttato nel letto e da un po' che mi sono alzato, quindi cerca di capirmi. Avanti Massimiliano, buonasera. Ciao Sandro, già ti capisco, non c'è problema. Va bene, dai, vediamo questo gruppo se si è saldato l'inizio, gruppo ci sei? Gruppo ha bruciato la radio. Avanti Giovanni. Forse che lo trovi sempre fisso lì, ogni tanto entra, scappa, telefono a quello che è sempre impegnato, ok? Ciao Sandro, buonasera. Ciao Gianmarì, buonasera anche a te, dai. Ciao QRM, QRM pazzesco. QRM Santiago 6, Santiago 7, non so se voi da parte vostra c'è QRM, ma penso proprio di sì. Va bene, va bene. Massimiliano, che cosa sta uscendo? Col cavallo? No, guglielmo. Ah, sei con l'asinello, sei, non col cavallo. Il cavallo la seconda notte perché tanto adesso mi fanno male che devo uscire, capito? Accendo, lascio tutto acceso, faccio il volume, ecco, quando ritorno, così te lo prendi. Ah, ho capito. Va bene, se che va bene, spariero, avanti. Sì, e come ti usando, sai, il coso, l'Omega? Chiappa, sì, l'ho piazzato un attimino qua, ogni tanto lo attacco qua, giusto per vedere un po' l'antenna, più che altro, per vedere un po' stazionaria così, va. Anche se è tutto però ballante, mi devo decidere a mettere i tiranti, e fino adesso sta recendo, vai. E io non mi piace, Fettellini, quella robusta, è una bomba con la radio. Non te ne risciare mai di quella radio, quando è volta proprio. Non te ne risciare mai, perché è di una potenza allucinante, vai a una radio che mai facendo la Lecce. Ancora più forte di quando la usi in macchina, guarda, veramente è una bomba. Giomari, bene lo senti. Troppo forte, perfetta, ma lo sento sempre bene a lui, sia in macchina che a casa. Buonissimo. 9.5 sì, 9.5, la radio è buonissima, perfetta. Capa, no, stavamo solo esclusivamente con l'apparato. Rispondo al caro amico, ti scrivo qui a fianco a me. Ciao Giampaolo, buonasera. Sì, c'ho QRM, infatti come accennato poc'anzi, c'ho QRM allucinante. Santiago 6, Santiago 7. Ok, scusate un attimino che rimetto il mic a Giampaolo Silvestro. Avanti Giampaolo. Basta così, l'aereo è partendo, sì, ciao. Certo, i tuoi ivi. Tu li prendi chi li è. Ma c'è fare la propagazione, è molto QRM, sì. Lo sto dicendo, arriva al 9, 9, 20, cazzo, 9, 10, 9, 20, cazzo, non hanno lascia, sono. Ma è cerca che... Ma boh, ciao, allora sta, buon capire, allora. Buonasera anche a Massimiliano e ricevo tutto a Graziano, io mi assento 5 minuti, Graziano, riprende, rientro subito. Cappa, ciao Massimiliano, ciao Sandro, buon caffè anche a te, Cappa di Ruggero. Riprendi Claudio. Ehi, ciao Massimiliano e ciao Sandro, buona caffeina. Ci si riascolta più tardi se coincide. Io sono a casa, non c'è problema. Ok, Gigi, vuoi riprendere? Sono d'ascolto. Va bene, comunque non ti preoccupare perché arrivi bene, no, non ci sono problemi di nessun tipo. No, sto facendo cosa, sto facendo cosa, capo di positivo, Claudio sta saldando, vabbè, allora se non c'è nessun altro riprendi tu, grazie. Cappa, ciao Gigino, in d'apparato, comunque per essere vecchiotta questa radietto già va bene, così è Claudio, è pulita, no? Perfetta, grazie, è perfettissima, capito, perfettissima, è perfettissima, a metà dei radiovecchi fanno ancora il suo dovere, non ci sono problemi. Sono portato la torella a vedere, riceve va bene però non usciva, e invece era una cazzata, non era il finale, c'era un filo staccato, e me l'ha saldato e andava in banda, e adesso gli do una sfregatina e una verniciata a bomboletta, solo che il bordo è cromato, ma la vedono la cromatura a spray. Il bordo è cromato. E vabbè, ci sono quelle bombolette che hanno la cromatura, grazie. E me la giudichi lì al coso, come si chiama, al bricome. Oh, e allora domani è 10, ma non sono brincavi. Perché è un po' male brugginosa, capito? Deve essere saltato lo smalto. E se c'è, glielo vernicio, una spruzzatura non gli fa male. La carteggio, tutto il bordo è cromato, capito? Poi tutto il resto è nero. E un baracchino mi hanno regalato un'Alfa, mai l'hai sentita questa marca? Sì. È quella che fa gli alimentatori, faceva con baracchini, Alfa Elettronica. Sì, sono delle buone radio, funzionano bene, non hanno nessun problema, grazie. Vanno alla grande. Questo era un 23 canali, siccome l'ho aperto a vedere e si vede che l'hanno fatto a 40 canali, si vede dove c'è tutto il segno, no? Dove ci sono le gocce dello stagno, e l'hanno fatta a 40 canali, e però si vede. Cioè, veramente bene, ottima, no, non ci sono problemi di nessun genere, grazie a Capitano. Quindi fallo andare, che funziona perfettamente. Ehi, ciao, che filtri c'ha questa qua? Ma la vetta che la gira c'ha i filtri, adesso senza il filtro, però posso girare la vetta e innesca i filtri anche. Cosa c'è anche la banda laterale? No, 40 canali, questo qua. Aspetta, attacco questo e attacco un altro. Quell'altro già ce l'ha le bande laterali, USB e le SB. Prova a vedere, ti ho 9, c'è problema già. Aspetta che sta con questo, va? Allora, sta andando sempre bene che fa questo, sì? Macca non ha peggio mai, niente, l'ho detto subito. Modulazione sua tipica, bella, chiara, forte, senza nessun problema. E chi da fare come ti andando, lo vuoi fare? Ormai sembra è perfetto, che lavora via, è nuovo, è nuovo, per cui ho visto che va benissimo. Ma ti immagini come sarà bloccato, certo. E piano piano sta diventando duro, io sono andato a mollarlo, il vecchio ho sentito strano, si vede che ho sforzato troppo e l'ha bloccato completamente, però adesso va benissimo, ma perlomeno. Lo uso qualche volta così, non sempre, capito? E perché sono gli altri che sono più maneggevoli, questo già sto che c'è mezz'ora a fare i casi e già c'è bene anche così accendendo, però meglio se lasciarlo scaldare, capito? Ora va bene che adesso duri, vai. Ce l'ho al minimo, a due tacchetti ce l'ho la potenza, non va bene. Sono tre conversioni, capito? Noi come te lo 14, assolutamente. 14 riesce a scaldare, poi man mano che scalda devi abbassare la potenza perché lo devi stabilizzare. E invece quello lì, se tu richiudi a 10 watt, l'attendi, circa attento, è sempre a 10 watt, ma rimane stabile, capito? Perché è un tre conversioni, c'è un convertitore quello lì, e quindi non lo fa niente. Lo puoi accendere anche a freddo, 2 minuti, giusto bavire il caffè, allora che c'è abbastanza per novità, mentre invece il 140 e il C80 sono due conversioni, e quindi devi aspettare che scaldi, che si assembli bene tutto il baravà, e allora poi fare un valvolare, basta, perché se no esce male, invece 440 no, 440 e 430 duri due attendi a freddo tranquillamente, e poi novità senza nessun problema. Io okay. Che è meglio saperlo, anche il 450 quando l'accendevo lo lasciavo sempre circa un quarto d'ora, ma andava bene anche a freddo quello lì, che è un peccato, ma speriamo me lo metto a posto anche quello, almeno grazie. Magari non è che mi piace tanto accendere, però mi piace averlo, boh, non so, sono fissato così, mi piace averlo, anche se non accendo non mi interessa, se non ci parlo non mi interessa, capito? Sì, tieni le mani e vado ai molti grandi, anche a me, mi piace averle tutte, ho una fendosa più, non mi capisco, chi è che vuole entrare avanti? Grazie a tutti. Grazie a una di te, c'è preso per tenere la foto di essere pesce. Ehi, c'ha poco spazio Graziano, capito? Non c'ha spazio, vi va la gincana, non c'ha spazio da mettere tutte le a poco le baracchine, fatti così, come ti fai? Allora, ti ne cava uno, lo sapra anche e fa vita, ma poi ne cava isso e la rega un altro, e così perché non c'ha posto, in mezzo ai piedi, capito? Per cui ci vuole anche posto per avere tutti davanti e a fare le commutazioni, ma lui non lo può fare, purtroppo così. Grazie a io. Perché? Registrato il break, eccoli, eccomi, Claudio, questo com'è? Ma che non ha, dai, tutto a posto, grazie. Ciao Giulio, buonasera, tutto a posto, ma vabbè, da Saghicio, avanti Giulio. Ok, ciao Cla, ciao Giovanni, ciao grazie, senta proprio che c'è la roba, mannaggia la meriglia, beh, rilascio il corpo a lui, va. Ciao Giulio, ma dimmi una cosa, già rilasciato i soldi già, non è che gli hai tutti spesi stamane? Ma vedo come faccio domani, capitina, ci mancherebbe altro, la radio sta andando bene, sì, cosa può baciare ancora, la può mettere, cosa devo fare? Allora andate, basta. No, perché ci ho messo un chiodo, ci ho messo, ho lasciato un potenziometro, sempre allo stesso livello, ho lasciato e tutto va bene così. Tutto comprato stamattina, grazie a tutto quanto, domani l'unico a voi mi compare giù la bolletta della luce. se te ci puoi immaginare tutti i giorni che vado a comprare. Dai, domani. Non manca ormai, no. Non manca. No, stavo aspettando, ma chissà che ti metto a farti qualche cosa e vedi da me dopo. E invece, a quanto ho sentito, non ci sono rimasto niente, per cui. E vabbè, almeno c'è la provvista, insomma. Grazie, arrangia, dimmi. Ehi, no, già mi la ragazzi, balluni a me, vero Giulio? Aspetta che te lo lasciate, ci manca il braccio. Da un po' Guga, ma qualche dubbio tu hai? Non è possibile, perché non mette le grazie? È sempre dubbioso questa persona. No, vai da grazia, se Matteo Giulio dice che ti va di bonifico, tu fai tranquillo, che in giornata ti arrivano subito i soldi, ecco. Già passo io con la carriola, non c'è bisogno di andare lì in banca a farmi il bonifico, già passo io, non è un problema, tanto già ci passo spesso. verificare se tu li sai prendere bene, perché se non li sai prendere bene e gli spieghi, allora mi vedo un attimo, guarda, non è possibile, grazie, ci mancherebbe altro, guarda, avanti io Maria. Ragazzi, come sta vicchio? Ci finiranno, e allora è l'unico a approfittare. E mammi, beh, Maria, che faccia manda a rimuovere la sirena che c'è persone. E grazie, c'è che è regolati, cazzo, mi domando. Comunque, ben rientro e ben risentito, Sandro, avanti. Ehi, va bene, Giovanni, dai. Graziano, calma, calma. Calma, sempre la goccia fissa e tirando avanti, tanto noi poi prendono la testa questi violastri ed è un gran casino, è un gran casino, quindi piano piano sempre andando avanti. E poi se viene a sapere quel signore là a Roma, quello con gli occhiali e con collini in fascia, quello lì ti viene a trovare subito a casa. Hai visto, riprendo io là. Giulio, ma hai visto grazie, non li basta ne mai. Non li basta che sono 3.000 euro che piglio ogni mese, cazzo. Non li basta, non li vuole ancora, cazzo. Ma ora basta capire, ma perché lui mangia 4 galacce, cazzo. E per qua la città di molti quattrini, e poi di quei colori speciali che lui sa, capito? Sì, sicuramente, egoista è troppo egoista in Graziano, Graziano, a te buono a piombo, un po' garito, lascia anche un po' agli altri, non è possibile, cazzettina, dai, io ho un po' di nuovo, cazzettina, però te lo un po' la volta, perché non si sa mai, no, io non so qualche sei fatto tu, se li prendi tutta l'ora, se li prendi a poco a poco, io che cosa ne so di queste cose? Lasciami verificare la situazione, se ti comporti bene puoi venire anche con camioncino, se invece ti comporti male allora sarebbe a dire non si passa ma che carina più lunghi, ma è qua. E non è già la montonezia. Se no, ho qua, se lui non si sa comportare bene, dammi lo mando a scala R, lo mando a pigliare dei chili. Manda a scala R, Sandro. Ogni tanto parlare d'altro, ma io volevo chiedere lì a Graziano, visto che Graziano ormai è il nostro chef della 27, Graziano, il menù stasera come sta andando? Ah no, stasera mi voglio rilassare, dunque mangio la pizza. Ah, ho capito, dai, va bene, ogni tanto bisogna cambiare il menù, dai, no, pensavo che eri ancora alle prese con i fornelli. Va bene, dai, già bisogna rilassarsi un attimino. Giulio, stasera pizza. Stasera pizza, no, qui la pizza è di giovedì. Di sabato niente. A pranzo avevo pollo e cotechino. Stanotte non lo so, ma a pranzo era quello. Il mio arancio a pranzo era quello lì. Vediamo un po' adesso stanotte cosa inventa mia moglie. Avanti, Gian Maria. Qualche cosa si trova, se no che la ricetta a Graziano e per cui già pensa lui a dirti cosa cucinare, vero Graziano? Diglielo. Allora ci puoi fare una cosa veloce, ti fai gli spaghettini, aglio e prezzemolo, il peperoncino e il trubaghettaglio, e te ne fai abbondante con due piatti, sei a posto, cioè prima e secondo. No, niente, gli spaghetti l'ho mangiati anche a pranzo, spaghetti, pollo e cotechino con le lenticchie, adesso stavolta vedremo, allora mi vuoi trovare un aglio, saluti, perché no, a me mi piace molto, e poi ci verrà, cosa ne ricaveremo come secondo, se no, pazienza, vuol dire, ci mangeremo la frutta, la cosa, che ne so. Va bene, tanto già ne ho necessità di fare anche un pochino di dieta io, mi sono avuto preso a gelato. Vabbè, riprendi qua. Infatti. Silvere, Silvere, caro mio, Silvere ci sente? Oh Giulio, io ti faccio una proposta, se per una settimana vuoi finire con me, guarda Claudio adesso è da un po' che non mi vede, ma ho calato un po', Guarda, io sono sempre intenzionato, Sandro, a comprarmi una tuta e andare allo centro di Quindi. Adesso metto anche l'annuncio, cercati compagno per footing. Dunque, un po', se abbiamo le stesse idee, mi fa il segno, lo prendi? Non mi butti a me. Sentito, Claudio, non lo freghi. No, no, ma il mio footing, tu già lo sai benissimo, il mio footing è completamente diverso. Abbigliamento normale, non la classica tutta per fare. E poi un buon paio di scarpe da tennis e vai. E per quale ci dovrebbe? Che non è che posso andare con il paracchino a correre, ci mancherebbe altro. Scarpe da tennis, certo, sarebbe di fare, non ci sono dubbi. No, diciamo che ci vuole sempre la compagnia, perché da solo, quando cominci a sentire un po' di stanchezza, allora ti fermi. Se invece c'è una persona che ti stimola, un po' tira uno, un po' tira l'altro, si va avanti continuamente. A Gian Maria lui lo propongo, vai Gian Maria, andiamo a correre alla taglia dei pini, tutte le sere, ci facciamo un'oretta, piano piano, la pandemia. Anche a me mi farebbe bene, però preferisco farle qua, io ho la pedana per cui ogni tanto mi dedico a quell'attrezzo, magari non è come quando si corre così direttamente, però anche quello fa qualcosa, capito? Però lascia a te giù, perché ho fatto visto che sta cominciando a aumentare un po' l'avanti, e per cui ci farebbe molto bene andare allo stadio di Pini. Esattamente, prendi anche a Graziano, perché Graziano è peggio, chi c'è diventato un, come tu ti ripi, cubanzoso, diventando canto a Magnelli, dice Graziano. Allora, proprio allo stadio dei Pini, già voglio la cicla in occhi, a primavera come cambia la temperatura mi metto a pedalare. Giulio, dimmi qua. Siamo in argomento. Ieri pomeriggio sono andato in quelle coordinate che ci siamo sentiti, guarda che ci siamo sentiti, quest'estate forse è stata, adesso non mi ricordo bene, a fine estate. E lo sai lì al buio quanto ne ho visti di quei piccolini facendo allenamento? Sì, e poi soprattutto in quelle salite, mamma mia, in quelle salite, in quelle curve, sicuramente, ma ce ne sono tantissime state. Devo dire che anche qui, di tanto in tanto, non vedo qualcuno, qualche persona più o meno della mia età, nella zona dei ripunti, stesso che facendo costa. E dunque, ma probabilmente quello lo fanno per questioni di salute anche, perché tu sai benissimo, la Sardegna è soggetta ad esempio al diabete e non c'è altra cura migliore per il diabete che correre, bruciare calorie praticamente, soprattutto se uno non riesce a regolarsi nel mangiare, e allora è importantissimo correre. Io appunto ha ragione Gian Maria quando dice di Graziano che il becubanzoso, magari non l'ho fatto, e quello è il problema, che non voglio diventare che il becubanzoso è buono. Oh, anche Claudio farebbe bene, è un bel po' di corsa, non ci sono dubbi, perché lui è molto sedentario, sempre usato in macchina, si va del 300 km lì, si crede, mette peso, non ci sono dubbi. Ocla, aiuto, qua tutto, tutti quanti, ci prendiamo e ce ne andiamo a fare i pini, ci prendiamo il portatilino e lo duriamo lo stesso, d'accordo? Ah, niente, non mi butti a me, vai tu a far futti, a me non mi butti. E ti sei la convincente tu? E ti sei la convincente? Non è possibile. Vabbè, dai, vuol dire che cercavo compagnia da qualche altra parte, cosa vuoi che ti dica? Ti sei considerato che non mi tenete in considerazione, e allora buono il microfono e lo passo a Gian Maria io, cosa vuoi che ti dica? Oddio, convincente, grazie. non conviene, perché è ancora attivo a camminare, a correre, capito? Per cui pigliati a Graziano, vedrai che dopo è contento anche lui. Ok signori, mi devo aspettare almeno 10 minuti, per cui ne approfitto io, là, è venuta gente. Riprendi tu Graziano, io rientro fra un quarto d'ora, vai. Ok. Giulio, io potrei anche venire, però bisogna organizzarci. Con l'ambulanza dietro e il camion dell'ossigeno. Allora posso pure richiami. No, così no, in realtà. Se ne due, ti devo pure drainando, andare, che ci mancherebbe altro. No, così no. Con la speranza di trovare qualcuno, ma il dico di mangiare non lo sentavo di riuscire. nessuno, o se fa pagatoni, non lo so qua, ma dove fatto tu hai in bagagliaio materiale e poi prendendo il piccolo alle 4 e 5 al mattino, niente, c'è la fuga all'estero. Io ho fatto gli eccessi, vabbè, un mese fa, forse il mese scorso, non so, non ricordo, era 24 ore su 24, quindi tutta la notte, perché c'era gli eccessi a livello mondiale, quindi tutte le frequenze erano occupate, capito? Già capita, sì, io ho voglia. Ah ok, sì, no, io diciamo che sia alle 2, qualche volta anche alle 3, già sono rimasto in ascolto in 80, in 80 metri, e devo dire che propagazione ce n'era, gente ce n'era, motivazioni bellissime, fortissime soprattutto, anche a livello di 9,20 e anche di più, sicché arrivano un po' ciò. Però ad esempio i 160 non l'ascolto perché non ho l'antenna adatta, e giustamente l'antenna del baracchino non è sufficiente per ascoltare i 160 metri, che poi non so nemmeno la propagazione dei 160, se è sempre di notte così, se è di mattina presto, non lo so, non li ho sentiti, sono i bisbigli e basta, però lo capisco, non c'è molta sensibilità all'antenna, capito? Prima già recenti, sì, se c'è gente già recenti, mica 1840, 1850, già recenti con la Mantova, Giulio, vanno, va bene, certo non puoi trasmettere, però riceve, già ricevi. E la Mantova è una particolare, ti permette di ricevere tutto, ma risulti, capito? Quindi non c'è problema, già andava bene. Ok, io non ho capito, ma il tuo baracchino, che baracchino è, o graziato? Ma c'è stato un baracchino, lo dico io, è andato al negozio della Mulsa, e ha comprato un baracchino e non funzionava, a me sembra che l'ha messo a posto, va bene così, dillo tu adesso, lo sai, poi fai tre anziani che capi due, avanti, graziato. Un'alfa, però adesso si chiama Alfa. Capito, si chiama Alfa, ma ho capito, dovrai ripresa, vai giù un pesce. Buona sera Gianni Capilu, vieni avanti. Sì, perfetto, ciao Giulio, ciao Graziano, Claudio, lo so che c'è ancora in frequenza degli altri, poi vedremo, ripresa la sera. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Buonasera, ben ascoltato. 9+20 Radio 5. Lo stavo dicendo, è meglio avere attaccata l'antenna, sei riuscito con la scala meccanica. L'ho attaccata, mi stavo anche ascoltando un po' adesso, però per modulare sono passato su questa, diciamo, quando c'è accoppiato il trasmettitore, no, quello che abbiamo visto, tu cosa fai? c'è l'attacco delle cuffie. Metti e attivi il monitor, ti ascolti. Sono leggermente spostati, anziché toccare la scala meccanica, giochi appena appena col BFO, capito? E tu lo senti centratissimo. Ma guarda, se metti la colonnina interna, poi mi dai la risposta. Io tutte le domeniche mattine accendo il valvolare, perché è favoloso, mi giuro, già lo ho fatto sentire la differenza che c'è tra il valvolare e il radio anche di ultima generazione, non è che devi mettere radio vecchia, anche di ultima generazione, se quello che radio è se la mangia. Avanti Giulio, per capi. No, guarda, sono al telefono, riprendete voi che sto parlando al telefono, rientro subito. Ok, vai, grazie. Ciao Capri 2, ben sentito. Già ti sento abbastanza bene anche io qua, riprenditela. Ma c'è la Giovanna, ben sentito, sono bici, grazie a te. la vista usando quella. Una bomba, una bomba, e allora sento. Ok, perfetto, rilanciamo a dai, giù c'è stato questa cosa, ma mi raccomando, graziare i primi. Eia, no, volevo dire a Claudio, questo apparato l'ho pagato 10 euro a Rubiduccio, infatti la riga giubilato c'era anche cosa, sacramento, e ho fatto prima a pigliarmi il ginocchio e era bene niente. 10 euro. Buono, buono, buono. Ci picchiamo. No, io ci sono passato un paio di volte, ma vi giuro va via tanta risa, non detta che era una cosa allucinante. No, l'ho resettato Capri e adesso lo faccio scaldare un pochettino qua e poi le attacco l'antenna e lo metto in HF in 40 metri, 20 metri, adesso vediamo. Continuo a usare il 430 qua, capite? Questo lo facciamo andare in banda laterale, facciamo lavorare solo in banda laterale, in 50 mega, quando capita, anche in 50 mega non va mai giù, una frequenza così morta e io spendo una barca di soldi, con radio, con antenne, c'è cioè la direttiva a 4 elementi, la faccio ancora trattata, non va mai giù, vabbè, niente, si aprirà la propagazione, questo è fatto, vediamo un po' come va. Ok, io ne approfitto, signore Belli, perché è arrivata la gente e mi devo attaccare un attimo dalla radio. Lascio tutto acceso, vi ascolto volentieri e se mai riprendo dopo. Microfono per te, Giulio, e fai girare. Momentaneamente per me QRX, ok? Ok, qua, ok, siamo qua comunque. Potevi dimenticare. Vabbè, gli amici di casa è chiaro che bisogna attendere, ci mancherebbe altro, vuole vedere. Sì, sì, dammi capi due, io quando sono un governatore sento una leggera portante di almeno un punto adesso più alta della tua. Sempre, tutti i passaggi che hai fatto, adesso non lo so, si dipende, ma te o c'è qualcuno che c'è una portante più alta, però il segnale tuo sale, evidentemente c'è qualcuno che ti sta mettendo una portante, almeno per la mia stazione, tanto è vero, io sono l'ambulatore, ho chiesto a Giovanni se c'era una portante. Io ho portato io la registro, evidentemente Gianni da te arriva più forte, mentre a me non è che arriva, non è mai arrivato molto forte, e c'è questa portantina che mi risuba la verità. Vabbè, dai, speriamo che non continui, guarda voi che ti dica. Avanti Giovanni. No, non la sento io, non la sento. Ora abbiamo lasciato a Sandro il parcheggio, dopo c'è anche Salvatore. Ricediamo prima a Sandro, dopo riprenderà Salvatore. Allora, chi Sandro, ci sei? Ci sono. No, tu non sei Sandro, tu sei Antonio. Allora Sandro, ripreso. Riprendi tu a tu allora e buonasera, ben risentito. E ripassa dopo a Salvatore, vai. No, volevo avere un controllo perché sto avendo problemi stazionari, ce l'ho a 1,5. Chiedatemi un controllo gentilmente di segnale. Adesso ti sei abbassato, prima era 9,20, mentre adesso sei 9,10, sei a me. 9,10, non va bene, c'è qualcosa che non va bene. Ok, io a te guardo, arrivo. Guardo, che tristezza. Sì, dai, 12. Che cosa Salvato? Manco più a 9 arrivi qua, che tristezza. Aspetta, ci deve essere qualcosa allora, aspetta. Sì, qua mi stanno arrivando, è 9 più 12 adesso. Ho cazzo di 9,20 pieno. Ciao Salvato, ascolta, beh l'antenna, funzionando si sta, so che hai l'antenna in fibra tu. Come ti sta comportando? Come materiale intendo? Perché io sono sempre indietrato da quando la cambio, che non trattano molto, appena incomincia le giornate più belle, a comprare proprio quella. Sai perché? Perché non ci sono i radiali, così almeno non do la possibilità ai volatili di posarsi sopra, hai capito Salvato? Ma infatti io l'avevo fatto il discorso dell'acquisto proprio per questo motivo. Qui c'ho tra gabbiani, cornacchie, ci sono gabbiani, cornacchie pasticcioni, va bene, non se ne parli. E ho visto tutte quante le altre antenne in TV che sono tutte quante storte, per cui ho optato sin dall'inizio per prendere un'antenna senza radiali. È a posto, non sto riscontrando alcun ROS in aumento, vedo che sbandiera continuamente, ti dirò anzi che si è piegato leggermente la punta del palo, ma l'antenna è perfetta, è come minimo, insomma, si poteva aspettare qualche reazione del genere sulla struttura visto il vento che ha fatto. Però adesso io sto andando con l'HF, con l'altra, però sinceramente veramente costruite bene, mi prendi nuove. Ok, Salvatore, sì, no, perché le caratteristiche io le ho lette a computer e devo dire che mi piacciono, quello che ho letto mi è piaciuto molto. Evidentemente va bene che senta Salvatore, chiedo qual è il risultato, visto che lui ormai ce l'ha già da un bel po' di tempo questa antenna, ma mi stai confortando dicendomi che va molto molto bene. Sì, anch'io sono intenzionato a prendere quella, proprio per quel motivo, perché non lo so, poi i volatili ci si posano sopra e quando spiccano il volo danno la spinta e prima o poi i radiali te le fa cadere, però avere meno ingombro, diciamo, dai, non, sinceramente non è che mi piace molto avere tutto questo ingombro sul tetto. Va bene, bene, bene, grazie dell'informazione, Salvatore. Passo il microfono a Graziano, avanti Graziano. Sì, scusate solo un attimo, riprendo io perché devo uscire in fretta e vi saluto, casomai ci sentiamo più tardi. Ok, d'accordo Salvatore, alle prossime allora, fate sentire un po' più spesso in 27. Avanti Graziano. Eia, ciao Salvatore, buon proseguimento di serata. Cappa, e com'è questa antenna? Dritta, dritta, senza radiali, Giulio. Sì, è un'antenna dritta, senza radiali, in fibra di vetro ed è rinforzata con dell'alluminio anche nei vari stili. Sono quattro tronconi e costruite da 1,90 m l'uno, quando ti affatta diventano 7 metri, una cosa 7,36 se ricordo bene l'altezza, 7,36 se non ricordo bene. E praticamente ha le funzionalità di un dipolo, capito? Perché è diventata proprio in quella maniera, come se fosse diventato un dipolo al centro. E non ha bisogno nemmeno del piano riflettente, dunque va benissimo. Qualsiasi altezza che tu utilizzi dal tetto, ad esempio, va sempre bene, perché non ha bisogno del piano riflettente. Naturalmente l'antenna lo sappiamo, più in alto la metti è più retta, più retrovia, questo è ovvio, no? Ma quello è tutto un altro discorso, o Graziano. Costa 160 euro, 159,90, in certi altri posti costa anche 225, però quella in quel negozio che io ho il sito eccetera, la trovo sempre a 159, 160 poche parole, capito? Avanti, riprendi e fai girare tu. Ehi, hai fibra di resina, e così ha detto. Sì, è fibra di vetro, sì. È una specie di resina, certo, è una fibra di vetro, ma non è di quella che si sfuglia, infatti quello che ho chiesto a Salvatore, non sarà di quella fibra di vetro che si sfuglia come i radiali ad esempio, o della Mantova 5, tanto per fare un esempio, che hai i radiali in fibra, capito? Che poi col tempo si sfibrano, si filano, va a toccare addirittura chi entra nelle mani, le scaldette del materiale. Questa no, è quello che ho chiesto al Salvatore, in che condizioni si trovava, come stava comportando, hai capito? E tra l'altro funziona anche per i 10 metri, ma a me, a te, non interessano i 10 metri, che cosa ce ne freghiamo, ma per dirti, no, è un'antenna che funziona anche in 10 metri, cioè nella banda radioamatoriale anche, capito? Grazie, riprendi a fare girare. Ehi, ha capito, perché i radiali della Mantova, la famosa, chi si accompagna, giocando la pigliata, ma appunto tutto rimane, paria che abbia pigliato una piccadiglia in mano. E appunto, il mio dubbio era quello, perché come forma di resistenza è tanto, anche perché è rinforzata anche con dell'alluminio interno, poi è ricoperta di fibra di vetro, capito? E quello, il mio dubbio era proprio quello, non altro, perché le caratteristiche le avete tutte, ha un guadagno superiore anche alla Mantova Turbo, perlomeno stando le caratteristiche che loro hanno scritto sul computer. È stata costruita con i dati del computer addirittura, è una Sirio, un'antenna, una marca Sirio. Radio. Deve andare bene, deve funzionare bene, sicuramente. Non ce lo futtendi, ma lo credo, perché Salvatore ha confermato che va benissimo. Dunque, io mi fido più di quello che dice Salvatore che di quello che leggo sulle caratteristiche del computer, capito, la computer. Avanti, Giovanni. Che l'ho vista, l'ho vista, e anche quella è una buona antenna. Sì, ho letto anche le caratteristiche, quindi che è un'antenna anche buona anche quella, ma io ormai ho la Mantova e lascio quella finché la marca va, lascia andare, quando non funziona più vuol dire che ne prenderò un'altra e deciderò cosa prendere. E il Salvatore la usa anche per i 10 metri e gli va bene anche per quello, capito? Per cui, però basta fare anche la Mantova, basta fare quel lavoro che ha fatto Gianni, i radiali bisogna legarli con una lenza di quella trasparente allo stilo centrale, e per cui resiste anche molto di più, ma vabbè, io non l'ho fatto mai, non lavoro in genere e ancora c'è qua, nonostante che si posano le cornacchie sopra. Poi in campagna addirittura c'erano i falchi che si mettevano proprio sulla punta della Mantova, c'era la stella, no? Sulla punta, e beh, si metteva proprio sulla punta, ti puoi immaginare, sul radiale non li ho visti mai quegli animali, quegli uccelli, capito, giù? Sì, infatti il sistema Gianni, gliel'avevo suggerito io di fare così, di mettere la lenza dal radiale allo stilo centrale, tanto la lenza non si vede nemmeno in alto, capito? Gliel'avevo suggerito io, dal centro del radiale, anche un po' di più dal centro, sino al radiale centrale, di mettere questa lenza è sicuramente una tenuta maggiore, ce l'ha, e non solamente per il fatto dei volatili, ma anche per il fatto del vento, così no, li fa vibrare di meno, vibrano sicuramente un po' di meno, e vibrando di meno naturalmente c'è anche un pochino in meno di QRM, capito Giovanni? E dunque quello è molto ma molto importante. Sì, poi tornando a quel discorso che hai detto tu, il volatile sulla punta dell'antenna, sì, sul fondetto sta dicendo, qualcuno ha avuto la pessima idea di eliminarlo, si piazza l'antenna e si elimina il funghetto, no, invece il funghetto è importantissimo, perché lui è proprio contro la corrente elettrostatica, questo se non lo stupidaggine, non è che è una cosa di plastica eccetera, ma è proprio quello, perché è isolato dall'antenna, in modo che la corrente elettrostatica, cioè il fumo anche, non entrano a pieno nell'antenna, capito? E tanta gente quando si è piazzata l'antenna, io lo so, le persone, adesso lui non le faccio perché non è corretto, anche perché non ci sono quelle persone per questa, e hanno eliminato il funghetto, no, quello è un errore, il funghetto si deve lasciare, perché è stato costruito appositamente per uno scopo ben preciso, capito? Mi prendi a tagliare tu, Giovanni? Che mai faccia così, è di plastica quella lì, è di plastica, e per cui li ho visti, in campagna li ho visti posare proprio sulla punta. Okay. Beh, c'è anche Gianni Caprino che è in parcheggio, vediamo un po' Gianni. Eccomi qua, no, mi sto ascoltando, non preoccupatevi, mi sto ascoltando. E Giovanni adesso hanno messo la portante, non lo so se è in preparazione o cos'è, non lo sento più. Non mi ascolta. No, non c'è portante, non c'è, perlomeno io non lo sento. Sentiamo, la portante qua è Santiago Lopez, lui va a stare arrivando, Santiago 7. Quando appena che parla subito sale Santiago Lopez, boh. Boh, il cari a quanto ce l'hai giù? Il cari a quanto ce l'ho io? Come potenza vuoi dire? Il cari, sì. 25 watt, aspetta che guardo. Sì, 25 watt. No, no, a che numero ce l'hai? Ah, quello è a 1, allora ma è mai il coso. Il caso è l'altro, quello dei watt è oggi mai. E quello che hai solo tu è il volume, no? Potremmo dire il volume, è 1, 1, se non metto di più strappa. Okay, scusa già, che stavo parlando di uno perché quando parli tu c'è una portante, dice lui, io non la sento. Prova di nuovo già. Ok. Anche io sono passato dentro una portante, insomma, non lo so, ma dove venga. Noi siamo qui. No, stai trappando leggermente, c'è una trombetta poco poco. Sento la trombetta quando parli, io già, forse è quella lì che sente Giulio. Ho passato il mic appena, non lo so se c'è ancora. No, adesso non c'è. Adesso non c'è, vedi, adesso non c'era. Adesso stavo proprio, metti solo la portante, Gianni, solo la portante metti. È lui, vai. Ma sono portato e poi se arriva e abbassava lo svita. Qui qualcuno che arriva qui nella zona sta mettendo la portante. È un segnale di 9. Quindi 2 mi arriva, 7 o 7. E appena che ha messo la portante subito all'altro, due colpi, uno susseguente all'altro, e arrivava al 9, capito? Gianni, mi metto la parte per un attimo, rimane fermo, non muovere nemmeno il microfono, perché voglio individuare se dipende dalla tua radio o effettivamente c'è qualcuno che cerca di sovrabbondare con la portante. Smetti di dire con la portante. È lui, dipende da lui. Ma se trovesse, infatti, non ce n'è portante, è lui. Sì, già si porta anche un rondio. Grazie, lo senti tu. Claudio si è assentato al tuo. No, scusate, siccome sto facendo prove con la nuova antenna, non volevo disturbare voi. Siccome mi sembra strano, sto uscendo davvero così in basso. Aspetta, 9:19, sì, vai. Aspetta, ti metto subito l'altra antenna e mi dici se scomiglio. Sì, allora, ritornando al discorso di Gianni, allora Gianni, ho verificato, mettendo solo la portante, che il problema è nel tuo apparato, o microfono, che cosa è, non lo so, perché tu mi arrivi sentiamo 7 al K, mi sto parlando del K, non sto parlando del malattio, appena che subentra quel rumore, quel sale la portante al 9, probabilmente perché tu hai già la giornata o qualche rumore simile, che mi fa salire anche lo smitter, allora è quello che mi ha ingannato. Però io devo dire che ti copre la modulazione, e qual è il problema? Che non riesco ad ascoltarti, ecco qual è il discorso, capite Gianni? Aspetta a vedere, ho lasciato cambiare il microfono, hai capito? Guarda con questo microfono, ora. Adesso va bene, vedi, adesso stai uscendo bene, io ti sento benissimo adesso. Giovanni, avanti. Facciamo invece la portata senza parlare solo, vai già. No, adesso è perfetta, adesso va benissimo. E infatti da lui, ma infatti me lo immaginate, era da lui, adesso invece è perfetto, perfetto. Ho cambiato il microfono, questo deve essere più sicuro messo. Di nuovo, Giovanni. Quasi che ci sia qualche contatto sporco, non lo so, non è che sto sempre usando il quinto che l'apparecchio nei nuovi CP294. Ok, perfetto, signor Graziano, buffo, a me l'antenna, come la fa? Graziano, sul telefono. Grazie a voi che si è accertato. In un momento si è uscito di nuovo con quel rumore, già. Cioè dopo è calato, adesso non ce n'è, prova di nuovo. È importante, mi sai calmare non stanno mettendo, è importante Gian Maria. Ti senti va bu, è importante, pure poco fa quando stava modulando. Lo sentivo. Ok, tu come mi senti? Se non mettono la portante Gianni, perché tu mi arrivi 7 e arriva la portante anche a intervallo, neanche il Graziano adesso l'ha sentito, e capito? Per cortesia, non è quello importante, cerca di essere un pochino gentile, non ti stiamo dando fastidio, dai, lascia parlare anche a Gianni, se non si mette in difficoltà non possiamo comunicare con lui, se tu interrompi in quel modo, e che diamine. Avanti, Gian Maria. Dacci pure, ma io penso che sia il microfono che si è portato presso questo sembra una portante, ma perlomeno può essere anche così come dici tu, cioè. Ok, molto bene, allora vediamo un po', Antonio. Sì, adesso ho messo la trentenna, guarda un attimino a parità di potenza erogata se cambia qualcosa. Non ha cambiato, la radio è il segnale, adesso sei 9.20, con picchi 21, per cui va benissimo adesso, è il tuo solito segnale, 9.20 è buonissimo. Allora c'è qualche problema nel cavo o nell'antenna, vabbè, vi ringrazio, adesso controllo, dai, ciao. D'accordo, come lo senti adesso giù? Io lo sento a 9.20 in modo modulato, a 9.20 lo sento a Antonio. La radio era bellissima, era bella, pulita, chiarissima. 9.20 di segnale modulato, sì, perché se no in effetti nelle pause delle parole diciamo che era 9.18, poi quando modulava anche 9.21-22 arrivava, capito? Perciò era un ottimo segnale, più che bello. La radio, ripeto, bellissima, riprendi Giovanni. Ok, qua c'è la radio, come giù? Alla grande, guarda, è uguale alla tua, poc'anzi quando tu ti sei assentato, l'ho chiesto un parere a Claudio, e ha detto che è uguale, non ci sono problemi, solo che io dicevo la modulazione, la voce è un pochino più con toni più alti, tutto lì, però come poi tutto il resto va bene, ci sono i toni medi, i toni alti e i toni bassi, dice che va bene così, capito? Io ripeto, siccome che tu qui hai spinto un po' la parecchio, Giovanni, che questo arriva all'importante modulata, arriva a 150 watt, arriva a questo, allora io sono costrettissimo a mettere a 1 centratissimo, se poco a poco aumento, anche di un solo pelo di coso, il potenziale sul volume, allora incomincia a strappare, capito? Infatti lo tengo sempre a 1, perché se lo aumento c'è quel problema lì, capito? Perché è stato tirato la LC della radio. Tant'è vero, ripeto, questo modulati da 150 watt, se io dovessi aumentare il carico, allora aumento più possibile, mi ha anche di più, anche senza aumentarlo, se metto ad esempio a 30 watt, 40 watt, mi arriva a 100, 130, 150 watt di modulazione, capito? Ho capito. Io ho i carrieri, ma anche ieri c'ero a 3, così che è sempre fermo, non l'aumento, non lo diminuisco, sempre così ho visto che va bene, va bene ugualmente, la radio è abbastanza buona, e per cui so che trappa quando aumenti, allora meglio lasciarla così, è perfetta, va bene così giù, così che vanno bene tutte e due, vai. Sì, va benissimo, è una radio chiarissima, bella, proprio possente, proprio di lusso. Infatti, io sono compressore inserito, Giovanni, ho anche il processore inserito, se lo tolgo si abbassa moltissimo, infatti per un attimo te lo tolgo, poi tu lo rimetto subito. Adesso l'ho tolto, la radio è sicuramente molto bassa, adesso l'ho rimesso, capito Giovanni? Infatti, io non ne metto mai, aspetta, adesso lo provo a mettere io, ma penso che trappi anche questo, dunque. Ecco, sono attaccato, adesso sono lontano, adesso sono proprio un altro lontano, come giù? Adesso sto trappando, adesso devi abbassare, se tu usi il processore, devi abbassare e il mic, capito? Devi abbassare, mettilo a uno, tra uno a uno. Adesso a 1, com'è? Adesso l'ultima, vedi la differenza? A me me l'aveva spiegato Claudio, com'era? Anche perché quando io questo l'ho preso, l'ho portato a Claudio e lui mi ha spiegato un po' tutto il funzionamento, e dunque siccome lui lo conosce molto bene, mi ha fatto parecchio perché era suo prima, era suo, ce l'aveva lui questo, capito? Ed era stato regolato proprio appositamente in quel modo lì, capito Giammaria? Ecco, se tu devi modulare col processore inserito, lo devi abbassare a uno proprio centrato, metto, perché se no ti devi allontanare un pochino dal microfono, ti devi allontanare, perché se ti avvicini troppo, allora inizia a trappare, capito? Almeno così, mi ha detto, così ti sto dicendo, ma è così perché tutti mi dicono che esco bene in questa maniera io, dunque non è che me l'ha detto solo Claudio, me l'hanno detto tutti che esco bene, poi tu mi sentirai, no? Oh? No, Maria. Sarà minuto. Lascia il processore inserito e metti il microchip a uno, cosa rete? Io non mai sono mai accorto di sentire il processore. Mamma mia che modulazione che c'hai. Metti il processore, lascia inserito e metti il microchip a uno, Giammarì. C'hai una radio che è una bomba. Adesso lo lascio sembrare, non l'ho mai messo io, mai messo sinceramente. Ma me l'accorgo, tu sono grazie. Ho tanto certo che faccio se mi avvicino di più, come radio lì sono così. Non me ne sono accorto io che sento il processore, la sentivo spinta. Però quando hai detto il Michigina 3, ha detto ma allora non sta spingendo con la radio rispetto a quella di Giulio, invece li sento il processore. Lascia il loro processore attaccato, ero Michigina 1, A1 Giammarì, è una bomba, è una veramente una bellissima radio. Una bellissima radio. Ma il capo che fine ha fatto? Sono qui Claudio, sono qui. E questo che c'è sotto chi è? Chi era con la portante 9 più 25, quasi 9.30? Chi è con la portante bianca, sta uscendo malissimo, non si capisce. Non so. Fammi risentire la radio, Giammarì, così a uno, tranquillo, parli tranquillo, senza di chi via a 20-30 cm al microfono, fammi sentire. Che sono a 80 cm dal microfono, vedo, ma non mai attaccato io, mai, e poi sto parlando a voce bassa, piano piano, perché c'è il televisore acceso qua, tutto lì. Non lo bucca più, basta lui processore inserito e Michi era uno Gio Maria, no, non ci sono, guarda, non ci sono discorsi da fare. Va benissimo, alla grande. Io sono rientrato perché c'è mia figlia, un ragazzo, quindi adesso me ne vado un po' nel salone. Se ci siete ci sentiamo dopo, ma vi stavo ascoltando, giusto per salutare. Se mai ci sentiamo attendo tra loro, magari ci sentiamo e poi dovremmo uscire. Giammarì, ottima radio veramente, basta che fai uscire perché non c'è proprio niente da dire, è uguale, spiccicata a quella di Giulio, tu senti a Giulio, senti la tua modulazione uguale. Allora io vi saluto momentaneamente, rimango in QX e buon proseguo di serata a tutti. Quindi Giulio fa girare per capri, ascolta ma non riprendo perché c'è gente. Ok, claro, d'accordo, attendi pure. No, aspetta, io prima di riprendere, di far riprendere Gio Maria, e a capri voglio vedere perché c'era una portante altissima qua, forse volevo entrare, ma però l'amico ha detto qualcosa ma non capivo perché stavo facendo male del radio e poi hai tentato anche insieme a Claudio di parlare. Avanti, chi era l'amico che voleva entrare su questo canale? Adesso non entra, vabbè, pazienza. Capito Gio Maria? Lascialo così perché adesso è una bomba. Meno male ragazzi perché ci ho pensato a chiederti se c'è il processore o meno. Adesso comunque lo sai, quando devi usare il processore lo metti a uno, se poi lo vuoi togliere lo metti anche a tre e va benissimo, non ci sono problemi. Anzi, forse anche senza processore, forse anche di più per aumentare, però voglio dire, è bellissima adesso, bellissima, lascialo così, tieniti lontano dal microfono, come faccio io, tutta la lunghezza del braccio, questo non è il microfono del baracchino o Giovanni, questo ha una sensibilità straordinaria, dunque tenere tutta la lunghezza del braccio, così il microfono della popolazione diventa forse più bella, più chiara, capito Giovanni? Faccio girare per Gianni, con le scuse, speriamo Gianni che non metta la portante di nuovo, quello lì, avanti Gianni. Sì, perfetto, sì. porta a rifare, anche quello è un custom, si mette la portante un custom, ogni cosa va bene per me, ok? Comunque fare un attimo di corrente di questa mano in garage a portare un autoparlante esterno, sto andando, lo tengo fra un attimo, dato se siete qui. Ok Gianni, d'accordo, siamo qui, entra subito, che noi siamo sempre qui. Comunque adesso è andato benissimo, non c'era nessun disturbo, ti ho sentito nella vita, è stato benissimo. Avanti Graziano, ci sei? Rientrata, dottore. Lo sto ascoltando, infatti adesso l'ho sentito più bene a Capri 2, proprio già era bella pulita, non c'erano interferenze, K di Ruggero. Saluta Claudio, ha detto che rimane ben ascolto perché c'è gente così e giù. Sì, intanto sicuramente lui può essere in la faccia per cambiare ancora un altro paio di parole, non ci sono dubbi, poi al limite se chiudiamo lo salutiamo lo stesso, tanto con Claudio non è segno di radio, sta tranquillo, io non lo so, e lui non lo lascia, magari abbassa il volume un po', però l'ascolto ci sarà senz'altro, già ci sente lo stesso. Ok, sì, ma è così. Vediamo un po', c'è Antonio Grote. Antonio Grote, vuoi partecipare al nostro questo? Sto partecipando facendo le orecchie di porco, mi sto saldando questo PL perché ho piazzato l'antenna e stranamente sta avendo problemi di stazionaria, un po' di problemi, adesso sto trasmettendo con un'altra antenna, però se ho qualcosa, ho un po' il cavo in corto o qualcosina che non va bene, dai, vi ascolto con piacere, rimango in radioascolto. Rientro. Ok Salvatore, d'accordo, insomma si sta facendo tribunale un pochino questa antenna, dai. Prendi a posto una volta per tutte e tu, così almeno non ci saranno più problemi. Se arriva il microfono, lo sabato avanti. Sì, cappa. Scusate, ma aspetta. Ecco qua. Mancava l'accordo, mancava. Eccomi qua, sono dovuto uscire di fretta perché dovevamo prendere nostra figlia che ci stava aspettando. Giulio, sto uscendo adesso con la cosa, con la Game Master. Prima stavo modulando con la file. Ok, dopo più 20, la radio è ultima veramente, mi conformerà di tutto, lo potrà confermare anche Gio Maria, abbiamo lo stesso, in questo momento lo stesso apparecchio che stiamo usando, sia io che Gio Maria, perciò anche lui, anzi la radio arriverà sicuramente molto più forte, perché io sono a dei punti, lui è lì, dalla zona tua, più o meno, dall'altra parte, e allora sempre lì. Avanti Gio Maria. Ok, buonasera, mi ero rientrato, Salvatore, per carità. Ok, vedo un po', metti, dici qualcosa, vedo un po' com'è il segnale, Salvatore, e dopo mi dici com'è questa radio. Sì, no, la radio mi sembra bella presente, però probabilmente effettivamente siamo molto vicini, perché mi arrivi già con un 925, quindi qua io sono nella zona di Cappuccini, capito? Niente di particolare, Prima, chiedo scusa, ma sono dovuto uscire velocemente, come vi ho detto, e non sono potuto salutare nessuno. Vi saluto e vi saluto tutti quanti adesso per l'ennesima volta, anche a quelli che stanno in ascolto. Tutto qui, cosa ti sembra la radio? Che la radio è buonissima, 9.30 sì, da me, infatti siamo molto vicini, è chiaro che, però se è 9.30 fa, e 9.20 arriva da Giulio, per cui va molto bene, la distanza è quella che, e qui c'è una radio bellissima, ottima direi, ecco. Bene, siete di qui, esatto, ho fatto piacere che ho risentito, buon proseguimento in serata, e se Dio vuole alle prossime, ok? Ma Giulio. Ok, ma non penso che stia andando via, è appena rientrato Salvatore. Salvatore, se vuoi essere così gentile da guardare lo smittere, se ti è possibile per cortesia, così mi riferisci anche il mio segnale, ti ringrazio. E avanti, ti rilancio il microfono, poi magari rilanci per Graziano. Avanti Salvatore. Sì, cappa giù. No, non sto andando via. Non sto andando via, Gio Mari. Sono appena rientrato, perché sono dovuto uscire di fretta e furia. furia, quindi non avevo manco usato la cortesia di salutare tutti. E 1.10 qua, fisso, con questa qua di antenna, ma la modulazione è bella pulita, bella chiara e senza alcun fruscio in sottofondo, tutto ok. Ok, va benissimo, molto molto bene, avanti Graziano. Certamente una tonalità diversa rispetto a quella di Giulio, però è perfetta, chiarissima, stesso segnale tra l'altro, sembra che stia trasmettendo dalla stessa postazione. KK, va bene, l'antenna mia bomba, barrigotta, ci mancano tutti i radiali, uno solo ne è rimasto, e più gli è uscita la gomma perché è partito un tirante. Come radio anche come segnale, vabbè noi siamo vicini per cui sta riuscendo bene, ma avevo voluto sentire quell'altro l'apparizio Grazia e almeno si renderà conto anche Giulio com'è quella radio e capito, adesso sono pure attaccato oppure no, vai. No, adesso no, al limite domani, adesso non tanto fra 5 minuti chiudo qua che devo preparare la cenetta, se no non mi cerco di ne dare un terrazzino. Sura, allora, per forza devi fare e preparare la cena, hai ragione, hanno ragione anche loro, ormai hanno preso quel vizio e sto facendo a fare tutto con preparare tutto il caricabatteria, bene, hai capito giù. Poi cucinare di nuovo, speriamo che sia roba buona, roba squisita, a tanto noi non ci inviti, c'è paura perché io mangiavo troppo, forse per quello che non ci inviti mai, così è. E allora, no, già non è che sia tutto questo grande affare, no, devo apparecchiare anche se c'è la pizza. Ci sono 15 decibel di differenza. sì, sì, quello sì, lo so, beh, le giovanie lì, io so dei punti. No, io intendevo come timbrica di modulazione, no, come capito, perché la voce mia è la somiglianza a quella di Gio Maria, stando quello che ci hanno detto più volte i cibi, capito, quando ci hanno sentito al baracchino, però non al capo, al baracchino. Ok. Però la tua, è più sassareggiante. Cos'è, perché ci abbiamo la timbrica della voce uguale? Perché io questo apparato l'ho preso a Rubiducciu, evidentemente è un apparato che ci ha portato Giulio, e allora gli è rimasta incarnata il suo timbro di voce. facciamo parlare anche Gio Maria, che se no si rilassa troppo e si addormenta, vero Gio Maria? Ma infatti ragione, graziato, giù, ecco, cioè è confuso, ma beh, ci rassomiglia, ci prendo per il Graziano, bensì ci prendo per il Giulio, quando entro io mi dico sempre giù. Trasmissione in classe A, l'effetto dovrebbe essere che in AM e in FM dovrebbe essere molto più pulita, senza strascichi e quant'altro. Comunque è un buon orecchio, l'hai notato. Giulio, vieni avanti per i saluti a Graziano, così lo liberiamo. Registrato 55, ok, ciao Graziano, salutoni, alle prossime, ci sentiamo, dai, c'è un 55 avanti. Ok, ciao Gianni, salutoni, per l'ascoltato, sono rimasto io e Salvatore, e in quel ricchi di ascolto c'è anche Claudio, e appena andato via Gio Maria e anche Graziano, naturalmente per motivi vari di famiglia sicuramente. Avanti ancora Gianni e fai girare tu pure. Cosa stai rientrando con il cofano pieno di pesce? No, ragazzi, vuoi da lavoro, Salvatore, almeno. A lavoro, vero, sono rientrato da lavoro, è stata una giornata molto stressante. Accidenti, ma stressante come al solito o si sono fatti vivi i nuovi problemi? Nuovi problemi, l'autista ha risolto a terra. A razza, ecco, a razza e festa. E a che ora se ne è ricordata? Alle 7 di sera? Allora, praticamente lui è andato, ha scaricato la tavola e si è reso conto che c'era una pedana di acqua. E c'è quest'acqua di chi è? Ah, oh, di Santa Teresa. Allora, ha chiamato a me, me l'ho chiamato da negozio, ha detto già vieni a prenderla che domani va la tautista alla porta. Se avessi fatto io mi sarebbe troncata in due la schiena, per carità, una pedana intera, vabbè. Spero che non ti capiti un'altra volta, li prendi tu nuovamente e poi fai girare a Giulio. C'è anche Claudio e Antonio Grode che stavano facendo dei lavori, Claudio è in QRX, li prendi pure tu di nuovo, doppio room. Ehi, poi tutto all'ultimo momento, Salvatore, capito? Tutto all'ultimo momento. Fai fretta perché sennò chiude il negozio qua, là, bomba, più fretta. Finalmente ci siamo liberati, va. Lasciamo i problemi al lavoro. Avanti, Giulio. Ok, già. Adesso te ne sei lasciati dietro i problemi di Perugia e del lavoro. Dunque, ci penserai adesso lunedì prossimo, lunedì mattina. Sì, c'è Antonio Grodi col dito bionico che sta saltando, dunque, mentre invece Claudio sta chiacchierando a casa che ha Ustichi, tutto lì. Va bene. Avanti, sabato. E cappa. Ma Giulio, se prendi orecchio un attimo, devi vedere se si sente una differenza tra questa trasmissione qua. Perché Claudio Tata non ho capito come abbia fatto, però c'è un orecchio allenato lui, questa qua di trasmissione, oppure, aspetta che stacco un attimo la portanza, oppure questa qua, un'altra trasmissione. Cos'hai notato in termini, però, lascia perdere il segnale perché deve essere anche usato, però non è quello, in termini di pulizia? Ma diciamo che questa seconda per me è più bella. Non è che ci sia una grandissima differenza, perlomeno io la dicevo così. Sì, il segnale in effetti di qualche punto è aumentato, però ho notato che c'è una maggiore pulizia nella modulazione, capito Salvatore? Con questa qua? Sì, con quella, sì, la seconda modulazione, quella, proprio questa. Ma... E con questa no, questa indipendentemente dal fatto che questa arriva con circa 150 watt in meno, però dovrebbe essere molto più pulita. Ma io dico che non, intanto l'ho già detto che non c'è questa grande differenza, e la seconda che avete fatto il passaggio, adesso non riesco a orientarmi se questa è la prima o la seconda, però qual è il fatto? prima e questa è la seconda. La seconda mi è sembrata un pochino più pulita, non lo so se Gianni, va bene che Gianni è in macchina, dunque probabilmente diviene anche difficile poter verificare la differenza, capito? Non lo so, comunque sono bellissime tutti e due, tanto non c'è questa grande differenza secondo me, capito? La mia, mi sembra uguale a me. Vabbè, in pratica già ci sono qualcosa come 150 watt di differenza tra l'una e l'altra, però questa qua che sto usando adesso dovrebbe essere in termini di emissione da parte della radio più pulita e più regolata. Quella con 150 in più, perché tanto non si sta nemmeno qua. Allora, io in macchina non sta questa sarebbe quella tradizionale, diciamo un pelo di potenza, però picchia quasi a 200, capito? Sì, questa è più forte di segnale, no, poi non ho tutta questa differenza di segnale, perché con l'altro è 9 e 18 e questo è 9 e 22, sicché non è che ci sia tutta questa differenza di segnale. E la radio, secondo me questa è uguale all'altra, c'è proprio una cosa impercettibile da poter vedere, non lo so. Comunque, forse leggermente questa, forse, leggermente un pochino più di chiarezza questa. Ho capito. Ok, però vado con questa perché in realtà questa qua preserva i finali e quindi li sollecita sicuramente di meno. Quindi provo a usarla in questo setup. Ok, sabato, sì, ma comunque sono entrambe simili, molto ma molto simili, dunque se non me l'avessi detto non avrei potuto nemmeno capire che la differenza, tant'è vero anche Gianni, anche se in macchina sentino che non hanno tanto differenza nemmeno lui di modulazione, io sto parlando di modulazione. Avanti Gianni. Io malgrado sia in macchina però una buona eccezione, non sento QRM, niente, però da sinistra a sinistra io non riesco a trovare questa differenza, poi magari una cosa percepibile che potrei sentire solo a caso, però in macchina io ascolto questa volta il benissimo come se fosse a caso, e anche se è giusto, la stessa cosa, perfettamente. Ok, già, sì, appunto, l'ho detto, che non c'è questa grande differenza, ammesso che ci sia, però forse, ripeto, un tantino, ma poco, quasi niente, quando aumenta il segnale, tutto lì, poi, non lo so, comunque non so cosa dire, insomma, va bene entrambi i modi, non ci sono problemi, o con 150 in più o 150 in meno di potenza, la radio per me è sempre quella, poi va bene, volevo chiederti Salvatore, quella bella moto ancora ce l'hai Salvatore? No, la bella moto, aspetta che faccio una cosa, così, allora, esattamente il paragone dovrebbe essere questo in termini di potenza, ecco, se notate qualcosa lo dovreste notare ora nel caso. No, la moto l'ho venduta la scorsa estate, non la stavo mai usando, ho fatto 5.000 km in un anno e mezzo, figurati un pochettino, e se l'è presa un amico, da quando l'ha presa lui ha fatto praticamente già i chilometri che io ho fatto in 4-5 anni. D'altronde, tutto sommato non lo usavi, lo usate meglio a fare, è così. Anche Gianni, la moto sua, non è che cammina molto, il mercato è un po' che se la fa camminare, ma lui giustamente non è che si può dire che deve andare molto a lavoro, ci mancherebbe altro, col freddo che fa nell'inverno, e poi con la moto non avrebbe nemmeno un baracchino, invece con la macchina Gianni noi lo accompagniamo sia al lavoro che poi al rientro a casa, lo accompagniamo quasi tutti i giorni, non è vero Gianni? Ma è certo che è così. Ma io diciamo che la moto ho usato questo metodo, le faccio un'assicurazione annuale, poi la blocco a novembre, dicembre e poi la riprendo nei mesi caldi, dai. A giugno, maggio, giugno, così la riprendo e poi la faccio finire, capito? E poi me la rifaccio nuova. Ho deciso di fare così perché in questo modo qua si risparmia se la stai a fare l'assicurazione tutti gli anni. E in più usi la moto quando si può usare, non quando c'è freddo. Se no, se tu c'è l'assicurazione, dici, cavolo, perché cosa la faccio? Poi pensi, la macchina è ferma, l'ho fatta anche per la macchina, sono soldi buttati. Allora ho adottato questo sistema qua e vedo che funziona. Ok, sì, ma certo, certo. In effetti è uno spreco inutile se uno non lo utilizza, se uno non utilizza il mezzo, usare la moto per poi lasciare la ferma, per pagare l'assicurazione non avrebbe senso. E fai bene a fare così, in effetti qualcosina si risparmia così, tanto più che bisogna risparmiare, visto che siamo in periodo di crisi. Va bene che tu già sei milionario, non hai più di quei problemi. Ma cosa c'hai, una di quelle assicurazioni online o già? No, è negativo, c'ho la Vittoria Assicurazioni. No, no, non è online, è proprio un'assicurazione. Io vado da Pronto, e dopo ti spiego chi è, ed è un agente praticamente, è un subagente che ha tante assicurazioni. Tu prendi quella che ti conviene, che costa di meno e via, e che ti convenga come pulizia, no? Questo qua, Salvatore, te ne faccio vedere la chiave spalle quando va scrivendo la frase. È talmente lento facendo le cose, guarda che è una cosa allucinante. Rispondi al telefono, pronto? Mi vai dal video di Volta di Lumetti. Ascolta, fino a un massimo di quanti mesi si può sospendere? Ah, adesso io l'ho fatta, guarda, l'ho sospesa dopo 3 mesi, l'ho usata 3 mesi, poi l'ho sospesa, e adesso me la uso altri 3 mesi, mi pare che nell'arco di 2 anni che devi finirla, capito? Ma quindi in pratica se tu la sospendi, tu la chiudi a giugno l'assicurazione, quindi annuale dovrebbe scadere a giugno dell'anno successivo, se tu la sospendi a settembre, alla fine di settembre, diciamo sono passati 3 mesi, se la sospendi di 3 mesi automaticamente slitta tutta quanta la scadenza della polizza a 3 mesi dopo, cioè a settembre dell'anno successivo? Sì, tutti i mesi che praticamente tu non hai fatto per recuperi, capito? No, è la prima volta io che la faccio, la verità, non è che sappia le cose bene o male, diciamo io l'ho chiesto solo per quello che interessava a me, ma non è che sappia tutte queste cose, perché è la prima volta che la faccio, l'ho sentito da un amico che la faceva, e allora ho copiato anch'io, ho chiesto, ma così si può fare, addirittura quest'amico per bloccarla pagava 20 euro ogni volta, invece non ho pagato manco una lira, e mi ha detto che non pago manco per riattivarla. Interessante. Quindi comunque con questo discorso puoi riuscire a far slittare ogni volta il periodo di scadenza dell'assicurazione, e slitta oggi, slitta domani, riesci praticamente a guadagnare delle mensilità ogni anno, che alla fine se lo fai per 4 volte è come se avessi guadagnato un anno di polizza, giusto? Quello è il calcolo che ho fatto io. Diciamo che tu lavoro non è che la utilizzi sempre, capito? Ma tu riprendere te la vuoi perché? No, negativo. Non cambierebbe più di tanto. La mattina stiamo andando a piedi in ufficio. Se per usarla sarebbe usarla d'estate qualche volta, non l'ho neanche usata chissà quanto. Quindi da come la usavo ieri a come la potrei usare in un prossimo futuro non cambierebbe, anche per cui sarebbe una spesa tutto sommato che si può evitare. Vabbè. Prima non si guardavano queste cose perché diciamo che il guadagno e i soldi bastavano per tutti, invece adesso bisogna sempre spingere. Direi. E Giulio, tu una moto non te la prendi? No, Salvatore, assolutamente. Io, a dire la verità, mi piace molto la moto. Ho già tanti anni, da diversi anni me l'avevo proibita addirittura al dottore, proprio a causa dei dolori alla schiena, eccetera. Mi avevo proibito addirittura di fare i bagni in mare anche. Dice, quando entri in acqua, in mare, entra, esci un attimo e asciugati subito, perché se tu vuoi stare bene, perché se no sei soggettissimo ad avere dei dolori alla schiena, perché io ho l'artrosi cervicale lombare, e la moto dice lasciala stare, non la usare più. Infatti così avevo fatto, l'avevo data la moto e via. E dunque io sono anni che non viaggio con la moto scoperta. Viaggiavo sino a un anno e mezzo fa, avevo il motocarro che mi serviva per il lavoro, in quanto io avevo la falegnameria, anzi ce l'ho ancora, però non sto più lavorando, ormai sono in pensione, e il motocarro quello sì era chiuso, quello già lo usavo, siccome mi sfogavo lì, no? La passione della moto a due ruote me la sfogavo nella moto a furgoncino che mi serviva per trasportare il legname e i lavori che facevo, tutto lì stava fatto. Diversamente no, mai più, no. Sto bene così, per carità, è meglio no, poi adesso c'è anche l'età sulle mie spalle, dunque non faccio come ha fatto Claudio Villa che ha portato la moto sino ad anzianità e poi purtroppo se n'è andato via giovane lo stesso, vabbè, pazienza, la vita è così, avanti sabato. Sì, ma Claudio Villa con la sua moto, che poi aveva una moto anche molto molto grossa, era andato addosso anche a una persona e gli aveva fatto molto molto molto male, se è per questo. Bene, questo non lo sapevo, vabbè, purtroppo gli incidenti possono succedere, lo so, no, io sono andato a guidare la moto a due ruote, guarda, sono senza esagerazione, ma almeno 25 anni, buoni, guarda, perché anzi ne avevo due addirittura, le ho dovute dare tutti e due, proprio perché il dottore mi aveva detto, se vuoi stare bene, e se non vuoi rischiare più di tanto per i reumatismi e per queste cose qua, dice lascia stare la moto e non... tanto la macchina ce l'hai, perciò infatti poi fatto, anzi avevo già anche motocarro, pensa che il motocarro di lavoro l'ho tenuto 32 anni, mi si è invecchiato in strada praticamente, sapessi come ho trovato i bambini sul cassone, tutti in allegria, saltandoci sopra, perché l'ho tenuta sempre in strada, L'unica passione che mi sono suonato per la moto, ripeto, era il motocarro. Il motocarro app che avevo per il lavoro, sino un anno e qualche mese fa, poi l'ho rottamato perché ormai ho chiuso, la falegnameria l'ho chiusa e non sto più lavorando. Pertanto che me lo faceva fare pagare, pagavo 650 euro l'anno di assicurazione, perché quei soldi sono risparmiati adesso. Bene, dove bene, riprende e fai girare per Gianni, vai. Ho capito. Vabbè, però tutta l'attrezzatura della famiglia Almeria si è rimasta, o hai proprio messo via tutto quanto e non neanche per hobby ti fai queste cose? Vabbè, mi rispondi dopo, dai, facciamo girare Gianni, che dal segnale che sta salendo penso che stia arrivando oramai. Gianni. Ehi, attento, ma sto tornando a casa, sono andato a fare un bel paninotto. Cappa, cosa ti stavo dicendo? Comunque la storia è questa, che praticamente la moto, Giulio, l'ha usata a cavolo un sacco di tempo e gli è servita, e sono molto che durano quelle. Comunque io con l'assicurazione ho risparmiato anche dalla macchina, mi ho messo una limitazione e ho risparmiato 50 euro. Ho messo la limitazione della guida a una persona che non abbia almeno 26 anni. Tanto in casa non è me, quindi che guidano la mia macchina, cosa non tengo a fare con questa limitazione? Se mi sono la mia macchina, la può guidare chiunque, anche un ragazzo di 18 anni, 20 anni, basta che abbia la patente, non ci sono problemi. Sì, pagava più della macchina, Gianni, il motocarro pagava più della macchina, 650 euro l'anno di assicurazione, e non era poco. Sì, devo dire che la usavo, perché la moto la usavo, o per comprare materiale, o per trasporto di vagoni già eseguiti, eccetera, l'ho usata molto, 30 anni ce l'ho avuta quella moto lì. Sì, mi sono fatto una fotografia, prima di rottamarla mi sono fatto una fotografia, e ciao, ma la sono conservata. Io, sì, è così, sì. Sì, ce l'ho la pareggiata io, ce l'ho sempre il sabato. Ho tutta la attrezzatura, anche perché il locale è mio, dunque, è tutto rimasto tutto dentro, tutto attivo, io vado, per dire, domani stesso vado volendo e posso lavorare, non è quello il problema. Intanto me lo invento il lavoro, perché devo dire che tanti giorni mi annoio così e stare in pensione, anche perché Sassari non ti offre una grande attrattiva, perciò non lo so, me lo invento proprio, non lo so la parola, o per me, o tante volte anche per qualche amico, quando mi capita lo faccio il lavoro, non è che non lo faccio, anche se magari me lo faccio a porte chiuse, perché ormai mi sono cancellato dalla Camera di Commercio, tutte queste belle cose, e se no avrei dovuto continuare a pagare tasse. Basta così, ho lavorato 60 anni nella mia vita e non voglio continuare a pagare altre tasse, basta così. Va bene, con questo passaggio io ascolto questo finalino e intanto vi saluto. Ciao Salvatore, grazie della chiacchierata, fate sentire più spesso il 27 Salvatore, ci fa piacere. Saluto a Gianni, tanto Gianni sta per arrivare a casa, anzi se non è già arrivato. Alle prossime, grazie ancora per il questo, riprende Salvatore, io ascolto il finale e poi chiudo, vai. Sì, perfetto Giulio, grazie a te della chiacchierata. Poi mi dirai quando entrerai nell'ottica definitiva di prendere l'antenna. Ripeto, ad oggi sono costruite bene, nulla da dire. Tra l'altro notavo, poi non ti trattengo oltre, ad esempio siccome è cortocircuitata come antenna, in questi giorni ad esempio c'ho un disturbo a causa probabilmente di umidità o dei radiali che sono stesi a terra sull'altra, sull'HF, per cui se la metto ad ascoltare ad esempio qui sulla 27 c'ho un rumore fastidioso di fondo come quello classico del motore di chi ti si ferma sotto casa, per intendere, cosa che con la gain non rileva minimamente, molto più silenziosa e ha un, aspettate, ad esempio prende 10 decibel di differenza come ricezione di segnale. Fammi sapere quando riuscirai a portare avanti l'acquisto ed eventualmente l'installazione. Ok Gianni, a te per salutare Giulio, così lo mandiamo a cenare e a riposare. Prego Gianni. Ciao, dai Giulio, grazie per la compagnia. Buona salita. Vi saluto anch'io cordialmente, ciao Salvatore, ciao tutti gli altri che mi ascoltano. Io faccio un correttivo e devo andare a fare i panini. Oggi abbiamo deciso di mangiare i panini. Ciao. Ok, scusa Salvatore, lo prendo io. Ciao Gianni, intanto. Sì, Salvatore, sei caso, non lo sapere. Sì, sono già entrato a comprare quella, adesso appena che incomincia il tempo buono, la ordino e così me la piazzo, perché adesso sul tetto non ci voglio salire, c'è freddo, non è il caso, tanto più che ho questo. Ti volevo chiedere ancora una cosa, Salvatore, se permetti, tu che sei molto gentile. Per il fatto di accordare le stazionarie è necessario oppure per le gravonti va già bene così? Poi un'altra cosa ancora, se io dovessi utilizzare per ascoltare nelle altre frequenze, come 40 metri, 20 metri, ricevo lo stesso, cioè mi spiego, perché adesso io ho una stella, no? con 16 radiali, di cui 8 sono già caduti, e riesco ad ascoltare tutta l'Europa e nelle varie frequenze, mi consente anche quella di ascoltare la frequenza radioamatoriale, ho salvato, ci ha mai provato? E Sai come no, ci ho già provato. Ciao Gianni, intanto salutiamo il buon Gianni che stasera ha deciso di farci una bella passata di panini. Ok, e buon proseguimento Gianni, resistici presto. Dunque Giulio, praticamente l'antenna è, una volta che la monti e rispetti le misure, così come è spiegato nel kit di installazione, molto semplice, praticamente risulta già accordata. In termini di trasmissione ho visto, mi sono spinto sino ai 24,6, dai 24,6 ai 30 sono riuscito a trasmettere, più in basso il ROS è molto alto. Invece in ascolto sì, puoi ascoltare, però la performance chiaramente non è un granché. In ascolto comunque è sempre una sorta di polo verticale quello che è realizzato con questa antenna, capito? E infatti all'interno c'è proprio un cavetto che tu vai a infilare in rame e che scorre tutta l'altezza dell'antenna all'interno e poi è cortocircuitata la base, e quel bobinone grosso che si vede. Sì, ad ascoltare puoi ascoltare, è chiaro che se tu fai un accordo anche con un tubo o qualsiasi, quella non va ad accordare, mentre con qualsiasi alta riesci ad avere un risultato di ascolto migliore. Almeno questa è la mia di esperienza, però se la cosa ti può far piacere faccio delle prove comparative e vedo un pochettino che cosa ne esce senza utilizzare l'accordatore da palo, così come tra l'una e l'altra. Riprendi di nuovo Giulio. Ok, insomma, sì, no, a me mi interessa solo l'ascolto, perché fate le trasmissioni, io non ne ho patente, dunque no, non potevo mai trasmettere. Ma siccome con questa mi diverto ad ascoltare molto con questa antenna, e devo dire, mi soddisfa abbastanza, perché sento tutta l'Europa, sento tutta l'Europa, in tutte le frequenze, dai 10 sino ai 40, 160 non ho mai sentito niente, perché giustamente questa antenna non è nuova, per il 160, parlo dell'ascolto, sia ben chiaro, sento il bisbiglio e basta, ma non sento di più, quello vabbè, comunque mi interessa che arrivo sino agli 80 e posso ascoltare nelle varie frequenze, 20, 80, 20, 40, 30, 80, eccetera, eccetera. No, volevo solo sapere, se no così almeno lo metto quella, io questa la tiro giù e basta, se no avrei tenuto anche questa per fare l'ascolto. Ecco cosa stavo pensando, tutto io sabato. Comunque ti ringrazio, sei stato molto molto gentile, alle prossime. Mi hai specificato tutto chiaro per il benino cosa posso fare, per cui io sono interessato a quello, all'ascolto e anche alla trasmissione naturalmente il 27, tutto lì. Ok, ancora grazie, sono qua, alle prossime. Scusami, non mi posso trattenere, sono già le 8, dunque adesso mi ha già chiamato per una volta, per la prima volta mia moglie dalla Taverneca, devo scendere per la cena. Ciao, saluto in casa, alle prossime. Ciao Claudio, se sei ancora ascolto, Gianni, tutti quanti, insomma, tutti gli amici che sono ascolto, saluto da parte mia. Sentire domani senz'altro, per chi fa piacere ci sarò. Ciao Sabato, riprendi. Lo riprendo anch'io. Ciao a voi, anche a te, salutoni, riprendi sabato. Ehi, Giulio, va benissimo, ci risentiamo presto. Bene, in questo momento stavo guardando, senza l'uso dell'accordatore della radio, le stazionarie sono a 1 e 2, quindi questo è il preaccordo, tutto lì. A te Antonio, ciao Giulio e a risentirci presto. Ciao Giulio, buona carica batterie, ci sentiamo, buon 144, quando lo farai ci sentiamo le prossime. Ho salvato una cortesia, te la posso chiedere, non è che puoi andare in 10 metri? Come no, dimmi dove vuoi andare. La base della frequenza, ricordami, la base della frequenza dei 10 metri qual è? Beh, quella in Fonia siamo a 28 180, dovremmo, cioè 28 e 200, 210 circa dovremmo essere lì come Fonia, se no altrimenti siamo dai 28 ai 29 e 3. Comunque 28, possiamo fare 28 e 3 o 28 6 e 75. Guarda, mi serve solamente un controllo di segnale, se possiamo andare sui 28. Ok, 28 e 3 allora, va bene. E cosa lo vuoi, in AM, in FM, in SSB? AM, AM. Allora, AM 28 e 3, andiamo. Tutti quanti che sto uscendo, poi ci sentiamo le prossime volte. Grode, idem, devo andare, quindi vi devo lasciare velocemente perché stiamo proprio uscendo di casa in questo momento. Salutone a tutti e salutone a tutti quelli che stanno ascoltando qui sul canale 5, 27.015. Bye bye, io devo chiudere in fretta quella di per me. Ciao ciao a tutti, ciao Antonio Grode, Antonio, a te Grode, sento il tuo finale e quello di Ian. Ti propone e poi chiudo. Ciao Salvatore, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Salvatore, buon continuo con tutte le prossime, fammi bene. Sì, grazie a voi e buon proseguimento di serata. Correti da parte mia. Ciao ragazzi. Thank you. Io, mamma mia, ero Porto Torres a fare un giro, va. Un po' deserto era, niente di che. Poi, vabbè, avevo il radio, non ne ho portato, perché tanto poi sento voluto come adesso. Come? Adesso. Io attimo non mettere portante, perché noi non veniamo sul in VHF a rompere le palle, eh. No, lui ha parlato male, adesso tu non giri, adesso deve, oggi non modula. Oggi non moduli, così impari a parlare bene. Scusami Marco, però. No, una volta ho parlato bene, sento che. Quindi a certo punto. Questa è stato. Vai via. Vai via. Forse non l'hai capito. Quindi se tu vuoi parlare, dimmelo tu. Sei da quello 27 e io. Vai via. Lo sai. E io lo... Vai via. E dai da quello? Sì. Con nessuno. Quindi fa la brava. Sì. Certo. Sento che ero. Sì, certo. Il discorso è chiuso. Ti voglio incontrare, ma ti incontra, diceva quella, no? E quindi no, assolutamente Puglia, perché a un certo punto... Stai ancora parlando, stai zitta, spegni tutto, aiuto. Vedi, è codato fa così. Vabbè, vuol dire che me ne vale 45 metri. Ciao Anto, ci siamo lì, 6630. Se metti portando non c'è problema, qui c'è poca gente là. Intanto tu non puoi entrare, quindi siamo a posto. Auguri e buona Pasqua.